Gentili ascoltatori, sta per iniziare Uno Nessuno 100 Milan, condotto da Uno e Nessuno, con la felice partecipazione di Cicciottello Manera. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi all'Elisabetta Fusconi Fan Club. Lo trovate su tutti i migliori social. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 9 e 8 minuti siamo in diretta dagli studi di Radio 24 in Milano. Vedo già e sono mobilitato verso un entusiasmo così bello, genuino, perché vedo Leonardo Manera. Se io vedo Leonardo Manera che entra negli studi di Radio 24, vuol dire che l'emergenza coronavirus è finita totalmente. Sto scherzando, dai, non prendetemi sempre sul serio, quasi mai sul serio, praticamente mai assolutamente serio io. C'è comunque l'Alpino in regia, Miriam Lucchetti in redazione, Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi credo l'abbiamo spedita in Svizzera come inviata ufficiale, e quindi ce ne siamo liberati ufficialmente, e siamo qui alle 9:09 minuti per parlare del giorno 2 del tentativo di ritorno alla normalità, alla normalizzazione. Dentro arriva Tusar e spinge la palla in porta. Il Lione approfitta della superiorità numerica, che cos'è? E mette dentro il gol dell'1-0. Vabbè, amici ascoltatori, allegria. Ma no, dai. Prevede un bel 4-0 per la Juve al ritorno. Si parla di questo, Champions League, Juve Lione. 4-0 per la Juve e veleggeranno verso l'ennesima Champions vinta. Vai Alpino! Enthusiasm about the future. Allora, signore, alle 9:10 minuti la normalizzazione, il tentativo di normalizzazione. Oggi vi segnalo, a questo proposito parleremo di coronavirus, ma non solo, non solo. Però vi segnalo, intanto vi annuncio che avremo Maurizio Milani, ci sarà con noi. Ieri abbiamo fatto l'appello, il grande Maurizio Milani ci sarà attorno alle 9:20. Ma parleremo anche di altro. Però il coronavirus, allora... Oggi, se notate sui giornali, c'è un tentativo di normalizzazione. Le TV sono disperate, secondo me, perché le TV si sono gettate a capofitto, non potevano credere all'idea di poter raccontare con gli inviati con le mascherine fuori dagli ospedali. C'è un format stupendo per le TV, strade deserte, esercito per le strade. Per le TV era l'ideale, era la cosa più bella del mondo. Adesso però si torna alla normalità, si cerca Sala a Milano, ha detto riapriamo Milano, vi prego, riapriamo Milano. Guarda qua sul Corriere della Sera l'intervista di Marco Imarisio alla prima donna infettata e guarita a Vo Euganeo. Ma quale paura? Stavo benissimo. Mi ha colpito, cioè mi hanno dato solo una, ho preso una sola medicina, il Moment, perché a un certo punto avevo mal di testa per tutta questa cagnara e ho chiesto il Moment, e poi mi hanno mandato a casa, ha detto tranquilla, stia a casa, se le viene la febbre prenda un po' di tachipirina. Tanto che il Corriere della Sera dice, beh, adesso lei non è che sta esagerando, al contrario, perché cioè, dall'inizio ce l'hanno dipinta senza dirlo come se fosse la peste. Adesso dicono, ma no, è un raffreddorino. Insomma, non si capisce. La comunicazione. È arrivato però Leonardo Valera. Leonardo, buongiorno, come stai? Perché prendi appunti? Che appunti stai prendendo? Non sto prendendo appunti, sto il mio pezzo, i miei due pezzi che quotidianamente sì? scrivo, poi me li sottolineano alcuni punti per poterli leggere. Li stai scrivendo adesso, come quando a scuola non studiavi e all'ultimo cerchi di rimediare. Li ho scritti stanotte, se proprio ti interessa la questione, stanotte verso mezzanotte, l'una. Non prendevi sonno per... Senti qua Mattia Feltri, ragazzi, io dovrei sposare in un matrimonio omosessuale Mattia Feltri, è così, tutto quello che scrive ogni giorno sulla stampa mi trova d'accordo al 110%, questo quasi sempre. Allora, reality show, Dunque, cosa ci mancava? Innanzitutto la barzelletta. Sentite questa: non prendete il Covid-19 che a settembre esce il Covid-20. Caruccia. Poi, beh, sicuramente ci mancava la t-shirt, ma ecco, la t-shirt, anzi parecchie, la mia preferita è Coronavirus World Tour 2020. Ci mancava il finto malato e voilà, nel milanese un pensionato si è messo a starnutire addosso ai cassieri che si sono buttati per terra e lui se l'è svignata senza pagare la spesa. Non male questo. Ah, ci mancava anche il commerciante spiritoso e ieri è comparso il cartello Aperivirus dalle 14 alle 18. Di sicuro ci mancava l'Istanbul e voi direte no, dai, impossibile. Invece sì, dopo rapidissima incubazione, il 10 marzo esce il nuovo libro di Burioni, Virus, la grande sfida. Naturalmente ci mancava il rap, ci ha pensato Taio East Yamanuchi, metà italiano, metà giapponese, nato a Roma, che canta Sono cinese e ti tossisco in faccia. Questa dovevi cercarla, eh? Sono cinese e ti tossisco in faccia. Forte suspense in attesa della versione bergamasca. Infine ci mancava l'inchiesta giudiziaria e qui la procura di Lodi ha aperto per capire se la diffusione del virus ci sia responsabilità sanzionabili con la galera. Quindi che ci manca? Forse un bel reality show sul coronavirus. Peccato, perché è già sotto gli occhi di tutti. Tu l'hai proposto, caro Leonardo, il reality show sul coronavirus. Com'è che l'avevi chiamato nella tua... Tampone in diretta. Tampone in diretta, tampone in diretta. Signori, l'impazzimento è questo. Ma prima di parlare di questo... vogliamo salutare, caro Leonardo, un ospite che è il direttore delle Gallerie degli Uffizi a Firenze, Heike Schmidt. Buongiorno, direttore, eccoci qui. Buongiorno. Allora, Heike Schmidt si è trovato all'interno di una, come definirla, battaglia sindacale, battaglia aziendale, insomma la vicenda è la vicenda del Leone X di Raffaello, che lei ha detto può essere mandato in prestito come opera alle scuderie del Quirinale in vista di una mostra che si aprirà il 5 marzo, e il comitato scientifico degli Uffizi, di cui lei è direttore, si è dimesso in massa per polemica contro questa decisione. Come definisce questa battaglia, direttore? Ma una battaglia evidentemente passata. Il quadro è a Roma, arrivato senza problemi, tutto sano, alle scuderie del Quirinale, della nostra grande mostra che co-organizziamo come Gallerie degli Uffizi insieme alle scuderie del Quirinale, mm-hmm, per celebrare questo grande artista che per tutto il Cinquecento definì l'arte europea e mondiale. Infatti da Roma, perché a Roma Raffaello ebbe la sua grande bottega, tutti i giovani artisti vennero a Roma per studiare con lui, e proprio per questo motivo poi c'era la diffusione della sua arte, del suo stile, dei suoi ideali umanistici in tutta l'Italia e poi appunto in tutta l'Europa. Quindi è già a Roma, direttore, il Raffaello è già a Roma, è arrivato, sano e salvo, avrà un ruolo molto importante nella mostra, nella parte che racconta l'importanza della riscoperta dell'arte classica, e poi lo studio dell'arte classica e anche la tutela dell'arte classica. Sì. Infatti proprio Papa Leone X nominò Raffaello il Prefectus Marmorum et Lapidum Omnium, quindi il primo sorprendente nella storia, e quindi questa è una parte molto molto importante. Tra l'altro dipinto è stato restaurato per l'occasione dall'Officio delle Pietre Dure negli ultimi più di 2 anni, e si vedono per la prima volta le varie tonalità coloristiche nel quadro. Quindi anche per il don specialista è stata una grande esperienza. Una grande visione. Sa cosa mi ha colpito? Che secondo il comitato scientifico era una opera giudicata inamovibile per motivi identitari. Ci vuole spiegare cosa vorrebbe dire per motivi identitari? Cioè appartiene a Firenze e a nessun altro? No, infatti è stato steso un elenco delle opere identitarie per la collezione, ma per l'Italia anzitutto, in risposta a un articolo del codice penale, l'articolo 66, che vieta l'esportazione fuori i confini nazionali. E quindi questo è un'opera identitaria senz'altro. Quindi Leone X non andrà mai all'estero, per esempio? Potrebbe teoricamente andare in casi eccezionali, ma di sicuro non facilmente, non dovrebbe uscire dai confini nazionali, anche tra l'altro c'è una normativa che disciplina che questo elenco deve essere rivisto ogni 4 anni e quindi potrebbe avere delle aggiunte oppure potrebbe anche uscire da questo elenco. Tuttavia è chiaro che qui abbiamo uno dei grandi capolavori dell'arte mondiale, un'opera identitaria, Raffigura un Papa, fu dipinto da Raffaello a Roma, quindi identitario senz'altro per Roma, così come anche per Firenze, e per questo non solo può andare a Roma, ma deve andare a Roma. Deve andare a Roma, sì, no, ma, lei ha anche detto faremo a meno di questo comitato scientifico, ecco, per questo mi è sembrato che ci fosse una battaglia evidentemente un po' anche sindacale o comunque, cioè, faremo a meno di questo comitato scientifico, cioè se l'è un po' presa. Sì, infatti, però dall'altro canto, cioè, non possiamo perdere tempo con le polemiche quindi è importante di andare avanti, lavorare in futuro. Le chiedo un'ultima cosa: la vicenda coronavirus ha impattato come presenze sugli Uffizi? Cioè gente agli Uffizi abbiamo una grande stabilità per quanto riguarda il numero di visitatori rispetto all'anno scorso, sia per tutto il mese di gennaio che anche febbraio, ma soprattutto gli ultimi giorni abbiamo un numero effettivamente leggermente più alto addirittura rispetto all'anno scorso. Abbiamo anche tanti visitatori italiani nel museo in questo momento, è sempre bassa stagione, quindi non ci sono file, oppure le file sono microscopiche. Tuttavia dentro al museo abbiamo circa il 10% in più rispetto al 2019. Beh, questa è una buona notizia, anche perché insomma molta gente dice bisogna ripartire dalla riapertura dei musei, dei teatri, anche di tutti i luoghi che fanno cultura, e quindi ecco, insomma, anche dei teatri, che noi poveri comici, gli artisti in generale siamo a zero. Franceschini, ministro Franceschini, intervenga, dica qualcosa a sostegno anche della nostra categoria. Noi salutiamo Heike Schmidt, che è il direttore delle Gallerie degli Uffizi. Raffaello è una figura interessante, perché tutti hanno l'idea dell'artista maledetto, no? Alla Caravaggio, invece Raffaello era bello, gaudente, faceva l'amore a destra e a sinistra con tutte le donne più belle, perché era bellissimo. Quindi Raffaello un po' lo invidio tantissimo. Quindi Raffaello è proprio la figura dell'artista felice. Ma adesso, ragazzi, io voglio salutare una persona che tu, Leonardo, conosci molto bene, vale a dire Maurizio Milani, che è con noi. Buongiorno Maurizio, ti ringraziamo molto per essere qui. Ciao Maurizio. Maurizio, ciao. Io sono Alessandro Milan. Maurizio, tu sei lì a Codogno, perché tu sei di Codogno. Abiti qui. Tra l'altro non da adesso, non sei andato per prendere il virus, ci abiti già da sempre. No, sono nato nel 61, sono sempre stato qua. Stupendo. È quasi 60 anni. 60 anni. Ma infatti adesso tu anche nell'ultimo libro, che è Il Verro Ruffiano, io lo voglio citare per Maldini e Castoldi, tu hai raccontato, come dire, la vita surreale, posso usare questo aggettivo, nella bassa. È cambiata così tanto col coronavirus? Un po' è cambiata, perché tu pensa che, ad esempio, io avevo il vizio della slot machine, no? Che mi stavo curando anche la ludopatia, così. Adesso tutti i bar sono chiusi, per cui non riesco più neanche a giocare alle slot machine, continuo a lavarmi le mani tutto il giorno. Ho preso un altro vizio. Sì, sono i disturbi ossessivi compulsivi che ho sempre avuto. E adesso, non so, prenderò un altro. Per adesso quello lì del lavarmi le mani mi trovo bene, continuo a lavarmi le mani tutto il giorno. Sai che Leonardo viene qua, mi ha appena passato la mucchina, mi passa la mucchina. Sì. Passamene un po', Leonardo. Maurizio, ma tu in questo caso puoi riprendere il tuo vecchio hobby, che era pesare i cani, andare in giro. Sì, anche pesare i cani, che ha mollato il canile, perché qua, sai, i volontari non se la sentono più di tenere i cani, perché ormai erano troppi, li ha mollati. C'è in giro un sacco di cani qua a Codogno, io non lo so, ogni via c'è una ventina di cani, anche belli, uno ma anche morsicato, per cui noi dobbiamo tenere presente che ci stiamo concentrando sul virus, ma ci sono anche altre malattie. Adesso non vorrei aver preso la rabbia, perché se mi ha morsicato il cane, dovete dirmi se ho preso la rabbia, che poi è anche contagiosa anche la rabbia. Non so se c'è il tampone per la rabbia. Praticamente sono tutti concentrati su quella malattia lì. Se uno si taglia una mano con il vetro nel lavare bicchieri, gli dicono ti facciamo il tampone. Ma che tampone? Mi devi cucire la mano che con i punti qua. Cioè tu dici che per ogni patologia, per ogni malattia ti fanno il tampone per il coronavirus. Tutto è basato, gira tutto attorno a una sola malattia, ma ci sono migliaia di malattie. Intanto io questa boccetta di amuchina di Manera me la tengo perché è molto preziosa. No, devo dire Manera che mi dice ridammela, perché al mercato nero ormai va sui 100 euro una boccettina. Certo. Ma in questa diciamo epidemia a Codogno c'è almeno un aspetto positivo, qualcosa di buono, di bello che tu vedi? Sì, Leonardo, io ti dico la verità, ho voluto ottimizzare il tempo della quarantena per prendere gli orecchioni che non avevo mai preso da bambino, perché sai, se mi vengono gli orecchioni tra un anno devo fare un'altra quarantena, quindi tanto vale che usi questo tempo per fare tutte le malattie che ritengo non aver fatto e che necessitano di quarantena. Cosa quindi, ti manca Maurizio Milani? Mi manca gli orecchioni, la scarlatina, sì. E infatti sto chiedendo a qualcuno se riescono a farmela avere, perché così sono più... Tanto devo stare in casa, sì, tanto... per non aver sorprese tra 2 o 3 anni di stare in casa ancora 40 giorni. È meglio mettere insieme tutto. Questa è una, per me, ottimizzare il tempo. Eh sì. Senti, i rapporti sociali come vanno lì a Codogno, tra di voi? Sai, il prefetto ha detto che non ci si può baciare tra fidanzati. Però questa è una deroga anche legata al fatto che la mia morosa è a Piacenza e è fuori dalla zona rossa, non può entrare nella zona dove ci sono io, quindi ieri mi ha lasciato, giustamente, ha fatto bene. Ma no. Perché ha detto scusa, tu sei nella zona rossa, ma ha bloccato proprio il telefono, non posso più, sai quando blocchi uno? Sì, su WhatsApp, neanche telefonare. Sì, no, io infatti la cerco, ma mi hanno detto, no ma guarda che ho parlato lì con uno qua del negozio, dei telefoni, mi ha detto sta bloccato, quindi... Sono stato contento ieri di essere anche stato lasciato dopo 10 anni di fidanzamento con la casa già comprata a Codogno, sì, che l'avevo comprata a 180.000 euro. Ieri è venuto uno qua a suonarmi il campanello, se gliela vendo a 21 euro. Perché Però sì, se ho capito bene, questo è anche un'attività che tu hai cercato, ottimizzando il tempo, di mettere, sì, a frutto. Insomma, a sto punto no, investi in immobili, no? Sì, investo in immobili, ma prima che c'era il coronavirus. Sì. Io avevo preso la casa 2 o 3 anni fa, adesso mi ricordo bene, a cavallo tra il 18, ma avevano detto il valore era 180.000 euro, una bella villetta a schiera. Adesso vale, se qualcuno ti dà 50 euro, mi hanno detto vendila, che quella 21 me ne dava, 21. Un pochino 21, perché poi cosa compro con 21? Sì, non puoi neanche giocare in slot machine, visto che... No, poi qua il prezzo di un chilo di zucchero è andato a 150 euro, Qui cioè, è diventato come una specie di mercato nero. Non c'è più niente, non c'è benzina, non c'è più sigarette, non c'è più le robe proprio necessarie anche per una vita sociale normale. Ma non si aggiustano più le biciclette se la buchi. Soprattutto non ci sono più le slot. Le slot, tu dici, io ho preso quel bel vizio lì perché in fondo anche lo Stato ha un'entrata notevole da questa... cosa, da questi giochi online, o non solo online. Io andavo proprio lì alle slot, iniziavo la mattina alle 6:30 proprio, quando apriva il bar, poi facevo una breve pausa a mezzogiorno e io diciamo che il 95% dei miei redditi li buttavo nella macchinetta, quindi adesso non so come spenderli. Devi trovarti un altro gioco d'azzardo, un'altra sì, no, perché esatto, puoi giocare online, tu giustamente dici. Però pare che vogliano anche levarci la connessione internet qua a Codogno, non so perché è un disastro. E poi non si può neanche giocare d'azzardo a carte, perché altrimenti perché sono poi anche ragazzi, adesso tutti quelli che sono passati da Codogno li mettono in quarantena. E tu pensa che 10 giorni fa hanno fatto il carnevale qua, c'erano gli sbandieratori di La Spezia, no? Sono stati qua 2 ore, sì. Arrivati col pullman, hanno fatto il loro spettacolo e poi sono tornati in Liguria. Il prefetto di La Spezia li ha richiamati e li ha messi in quarantena perché sono stati qua 2 ore a Codogno. Ma non è che tutti i 50.000 abitanti della zona rossa hanno diciamo il test positivo. Però, sì, non so, a questo punto mi viene il dubbio che abbiamo tutti, cioè bisognerebbe sapere in che percentuale noi siamo contagiati. C'è un aspetto positivo, Maurizio, secondo me, che quando la storia finirà, Codogno sarà diventata così famosa che sarà più facile rimanere fisso con qualche modello. No, quello sì, perché poi Leonardo ti ha lasciato la fidanzata, quindi sì, insomma. No, lei ha fatto bene a lasciarmi, perché avrei fatto così anch'io, a dire la verità. Sì, a parti opposte, lei si fosse trovata in zona rossa, io le bloccavo il telefono e non la volevo più vedere. Ecco. Perché il vero amore è quello, è il sentimento puro di non aiutare nel momento del bisogno la compagna o il compagno. Maurizio, noi ti ringraziamo. Maurizio Milani, io voglio ricordarlo ancora, leggetelo il libro, è il libro che è uscito per Baldini Castodi, Il Verro Ruffiano, il primo vero completo sul bestiame, anche se Greta Thunberg non vuole. Ecco. Maurizio Milani. Ciao Maurizio. Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Ciao. Grande, ciao. Che prima faceva Innamorato Fisso, la rubrica su Foglio, adesso ho visto che fa la rubrica Isolato Fisso, l'ho vista sulla Verità, e vabbè, è così. Maurizio Milani, un grande. C'è gente che ci scrive, ma fa il simpatico o è serio? È Maurizio Milani, e quindi insomma non è che dobbiamo aggiungere altro. Allora Leonardo, noi si va a quest'ora in genere un attimino in pubblicità. Tu sei poco abituato forse a questi orari, Antenucani. Sono arrivato molto, perché oggi ci ho messo anche meno di prima ad arrivare. Oggi in automobile. Ma dicono che tutto sta tornando alla normalità. Io oggi in automobile da casa mia, altra parte di Milano, opposta, qui ci ho messo 20 minuti, mai fatto 20 minuti. Ma infatti, cioè, perché siamo così convinti di voler tornare alla normalità? Forse no. Io sto benissimo così, anch'io oggi ho preso la macchina, non c'era nessuno, ai semafori c'erano 2 macchine davanti al semaforo, di solito ce ne sono 25. Non so se hai notato la novità qua sotto all'ingresso di Radio 24. No, perché sono passato dal garage. Ecco, questa è, adesso, francamente. Beh, ne vuoi sapere una peggiore? Miriam Lucchetti, cioè, qual è la novità? No, la novità è che quando entri qui nella hall ti misurano la febbre. Però sì, qual è il fatto? Che alcuni dicono no, io non la misuro e vanno via. Miriam Lucchetti, ma allora che senso ha? Devo andare a fare una diretta. Senso devo andare a fare una diretta. Se chi vuole passa, non ti possono blindare, quindi chi vuole passa e chi non. Hai trovato quella sfida, Lucchetti. Vabbè, ma lei non è una novità, si sa che Miriam è così. Sì, l'arrogante della radio. La faccia dell'arroganza, proprio, sì. Quel sorriso, quel ghigno satanico anche. A proposito di satanico, oh ragazzi, ce l'abbiamo l'audio del mitico Don Livio Fanzaga. Cioè, il cardinal Scola, per una pagina intera di Repubblica, ha dovuto dichiarare, per rassicurare forse il popolo, non lo so, che non è un castigo di Dio. Questo non è un castigo di Dio. Pagina tipo 6 di Repubblica, il cardinal Scola rassicura il mondo e gli italiani. 2000, oh, siamo nel 2020, ci vuole una pagina di Repubblica con il cardinal Scola a dire che non è un castigo di Contrariamente a quanto detto Don Livio Fanzaga, che su Radio Maria sta facendo uno spettacolo di quelli che, per cui bisognerebbe pagare il biglietto per ascoltarlo. E quindi è un ammonimento del cielo. Attraverso questa pandemia la Madonna ci dà un messaggio chiarissimo. E forse il fatto che si chiami corona, perché ha la forma di corona questo virus, è anche un messaggio che la Madonna ci dice: pregate. Io pensavo a Mauro Corona. Pensa un po'. Questo coronavirus abbiamo aperto gli occhi, perché il coronavirus è venuto in un momento giusto. Giusto. Cioè, pensate, cari amici, al messaggio della Madonna dato a Ivan il 17 settembre, drammatico, dove la Madonna ha detto che si sta realizzando il piano di Satana, e cioè che l'umanità mette da parte Dio per mettere se stessa al posto di Dio. E quindi arriva il castigo di Dio. Ma smettila con questa mucchina. Ma mi piace l'odore. Mi piace l'odore. Ma se la finisci, ma dove la compri adesso? Se finisci quella sei spacciato. Sono spacciato. Però ieri ci ha detto il virologo che va bene anche l'aceto. Però qui con delle gran bottiglie di aceto. Molti ci hanno scritto. No, era un medico. Molti ci hanno scritto dicendo che è una minchiata questa dell'aceto. Quindi, sai, ragazzi, ma cosa dobbiamo. A chi dobbiamo credere? Io credo a te, Manera. Dimmi, Manera, io pendo dalle tue labbra. Fiamma ossidrica pende dalla Madonna. Se ti metti della fiamma ossidrica sulle mani, i batteri se ne vanno. Ti ringrazio. Non lo so. Soda caustica. Non anche, lo so la soda se ti caustica. Credo più. Non lo so. Vedo quel ghigno satanico che ho visto solo in Miriam Lucchetti ultimamente. Ah, sì, si sa che lei è così. Pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, ma Manera è caduto dal letto e è già qui alle 9.10. Ci stupisce veramente, incredibile. Ma perché no anche la trasmissione sportiva radiofonica, tutto il virus minuto per minuto. Milan, hai poco da fare lo spiritoso. Fino a ieri ci hai fatto due coglioni così a parlare del virus e intervistare gente. Per piacere, non fare il moralista adesso. Moralista di che? Perché ho fatto il moralista su cosa? Allora, tu subito adesso mi attaccherai? Mi stupiscono gli spettatori che dopo anni scoprono che qui Alessandro è un moralista. Ecco, immoralista. Ecco. Guarda qua, è arrivato un messaggio stupendo, ascoltatori. Mi sono chiesto da dove derivi il successo di Uno Nessuno 100.000. Sì, certo, Milan è uno bravo, anzi, scrive ottimo, ma non basta. L'impianto necessario all'opera necessita di due vere star del programma, Leonardo Manera e Elisabetta Fusconi. Leonardo, che è il bambino che è dentro tutti noi, rappresenta, ti piace questa cosa? Rappresenta, sì, il fanciullino. Mi il piace, fanciullino. Bello. La sua pigrizia, il cercare scuse le più diverse per non andare scusa, al lavoro. Ci ricorda tanto quanto si provava a dire alla mamma: un po' di mal di testa, non mi sento bene, sperando suscitasse compassione. Manera è il nostro bambino. Lo amiamo perché è puro. Questa è la verità. Io sono una delle persone più pure d'Italia. Poveri stolti i nostri ascoltatori. Se lo dici tu. Invece Fusconi non è solo una bella voce, ce ne sono tante. È un po' come quando si sente una cantante famosa e si dice: caspita, che bella voce! No, non basta per suscitare le emozioni profonde. Lei è come quando si mette un disco di Aretha Franklin, di Ella Fitzgerald o, nell'ambito maschile, Joe Cocker. Lei è il blues, è il soul, è il jazz. Beh, che bei complimenti. Grande Luca, che bel messaggio. Lunga vita a Elisabetta e Leonardo. Alessandro crepa pure. No, questo non c'è scritto. Alessandro crepa pure, non c'è scritto. Allora, signori, cosa mancava, dicevamo, in tutta questa cacciara? La canzone sul coronavirus. Però io devo dire, Mattia Feltri ha detto che c'è questo rap di tale Taiyo East Yamanuchi, metà italiano, metà giapponese, ma nato a Roma. Noi l'abbiamo trovata però questa canzone, questo rap, sono cinese e canta sono cinese e ti tossisco in faccia, il titolo non si capisce qual è. Però allora, io l'abbiamo trovata grazie a Lorenzo Nespoli, io ve la faccio ascoltare e io devo dire che non è un brutto rap. Senti qua un po', Leonardo, a parte l'inizio un po' inquietante, eh? Ah, sta para dei cinesi mo è paranormale. Ed io non c'ho più voglia di insegnarvi a campare. Dici tre volte hai sta avanti al cellulare, lui appare, ma guarda se devo tornare a insegnarvi a rappare. Il film è già in tutte le sale, io già vedo la scena, la mamma che tossisce sangue mentre fa la cena. Il 2% di fatalità, virus mortale a malapena. Sta gente qua ha messo il cervello in quarantena, mo tutti i professori in fatto di cromosomi, tutti col camice al banco dei testimoni. Non mangerò più sushi, bel branco di pecoroni. Io la corona ce l'ho in testa, mica nei polmoni, ma l'idiota non si ferma, mica gli conviene. Basta un nemico, solo è guerra in fila. Tipo iene, il web gli dà la sua conferma, micchia figo il meme. Quell'arma chimica, il tuo sperma, sia la tua progenie. Io da bambino ero Cin Cin Chan, ma poi mi hai visto in tele, allora sei mio grande fan. Mo c'ho la tosse, socio, date la gambe, va dai retta a me, date la gambe, va. Io da bambino ero sempre solo Cin Cin Chan, ma poi mi hai visto in tele, allora sei mio grande fan. Io c'ho la tosse, socio, date la gambe, va. Io resto public enemy, number one. Oh, Cioè, ragazzi, io metti un paio di applausi. Guarda che non sono versi buttati lì. Cioè, purtroppo ha un problema questo rapper. Ha un problema. Cioè, che non parla con la S, perché per aver successo come rapper devi fare un po' la S. La S così, se no non funziona. S. Sembra un po' sprecacciato. Ha una bella voce, no? Una bella voce, bello, anche pulita. Bello. E quindi anche avrà problemi come rapper. Vabbè, vabbè. Salutiamo Federico Sbandi. Federico, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo. Allora, è un digital strategist, interessante anche come quello. Ha fondato Digital Combat Academy e insomma Federico Sbandi controlla quello che gli italiani cercano sui motori di ricerca, diciamo Google è il più famoso, no? Per non far pubblicità, in tempi di coronavirus, e allora è molto interessante capire che cosa cerca gli italiani, Federico. Allora, la tesi di fondo è che internet non cambia le persone, le espone solo per quello che sono, e quindi a un certo punto l'Italia è impazzita e questa paranoia collettiva è arrivata anche su internet. E il bello di internet è che però puoi misurare la paranoia, cioè ad esempio quante persone su Google digitano letteralmente la chiave di ricerca come fare la mucchina in casa. Come fa? Eh beh, sì, questo è un gran classico. Come fare la mucchina in casa? Io non l'ho guardato questa cosa. Io però non mi ha dato un'idea. Ancora fatto, però effettivamente quanti sono gli italiani? Tantissimi sono. Decine di migliaia, perché non paghi di aver già acquistato sui siti di e-commerce online a 90 euro pacchi da 4 a mucchine, hanno deciso anche di farsela in casa perché era finita. Eh beh sì, a un certo punto hanno detto va bene 90 euro, ma io, davvero c'è qualcuno che l'avrà comprata a 90 euro? Cioè secondo me è stata venduta a 90 euro, ma qualcuno l'ha comprata? Ecco, questa è una, vabbè, non c'entra, ma me lo chiedo davvero, uno che abbia speso. In realtà sì, anche perché poi gli siti di e-commerce hanno cominciato a giocare su questa cosa, alzando di volta in volta i prezzi in modo del tutto arbitrario, proprio perché c'era talmente tanta domanda che potevano permettersi ogni volta di ribaltare il prezzo e alzarlo. Sì, sì. E quindi come fare la mucchina in casa è una delle ricerche più... Poi vabbè, ma banalmente coronavirus sarà una parola molto... molto ovviamente curiosa. Esplosa, e anche lì è interessante vedere lo spaccato, perché puoi vedere ovviamente che regioni tipo la Lombardia, dove io vivo, perché vivo a Milano, letteralmente è la regione d'Italia dove si sono eseguite più ricerche a riguardo. Perché? Sì. Perché è soprattutto in questa città che a un certo punto tra domenica e lunedì siamo tutti quanti impazziti, ripeto, questa pazzia traslata online. Però magari c'è anche qualcuno che fa delle ricerche sensate, nel senso di approfondite, di scientifiche, oppure ecco, quelle no, cioè sono ricerche più basiche quelle che si fanno? Beh, in realtà ricercare informazioni è sempre un bene, perché si tratta dopo tutto di acquisire degli elementi che ti permettono di capire un pochino meglio la realtà. Il problema è quando, accumulando 7 informazioni a caso da Google, tu ti presenti in ospedale, come dire, ingigantendo la fila già grande, dicendo ok, ho letto su Google che ho il coronavirus. Sì, ovviamente peraltro non devi neanche, non dovresti neanche andare in ospedale, dovresti chiamare i numeri che sono letteralmente impazziti. Ma poi secondo te gli italiani che fanno queste ricerche sono in grado di capire quali informazioni sono realistiche e invece quali sono dei fake? Beh, questo è il grande tema, la differenza tra saper leggere e saper comprendere le informazioni, no? Quando parliamo di analfabetismo funzionale, in realtà queste sono dinamiche umane che sono sempre esistite, però ripeto, il bello e il brutto di internet è che adesso le hanno esposte. Pensiamo ai social media. I social media ci stanno dando letteralmente in tempo reale lo spaccato di tutti quelli che sono i pensieri, i litigi, le discussioni, ripeto, le paranoie tra i cittadini italiani, che fino a 40 anni fa potevamo sentire al bar, in casa, in un contesto di lavoro, che invece oggi sono pubbliche, e tu quindi in un attimo hai sui diversi canali social lo spaccato di quali sono le conversazioni emergenti. Esempio, su LinkedIn, che è la piazza digitale principalmente destinata a chi fa business o a chi comunque lavora, la conversazione principale è intorno allo smart working, cioè imprenditori che hanno sempre dato ai propri dipendenti la possibilità di lavorare magari da casa o in uno spazio comune, adesso improvvisamente nel 2020 si vantano perché l'hanno sempre fatto a prescindere dal coronavirus, anche se in realtà è una cosa che esiste da 20 anni. In ogni caso è interessante, insomma, ci si attacca al computer, si fanno le ricerche. Quali sono i social sui quali si concentra di più la conversazione? Si può sapere anche questo? Allora, in realtà la conversazione è equamente distribuita tra i diversi canali. La differenza è che siccome ogni canale è come se fosse una realtà, se in realtà contiene anche una conversazione un pochino differente. Quindi succede che se è vero che su LinkedIn la conversazione è più tra professionisti sul tema dello smart working, ad esempio è già su Twitter, la conversazione è un pochino più politica, sì. E quindi ci sono ad esempio persone che si schienano da una parte o dall'altra, nord contro sud, le persone del sud che per la prima volta in vita loro possono prendersela, certo, con quelli del nord che vengono ad infettarli, oppure su Facebook e Instagram e WhatsApp, che sono invece le, come dire, i canali un pochino più popolari, e lì dove proliferano spesso informazioni. Sì, anche ragazzi, cioè, poi c'è da dire nord contro sud, però ogni tanto escono delle notizie, per esempio, primo caso in Abruzzo, è successo questa mattina, è una turista dalla Brianza, cioè la Brianza, quindi Monza e dintorni. E voglio dire, quindi effettivamente, cioè, è sbagliato prendersela, perché comunque tanto questo virus girerà, però il dato di fatto, cioè, come a Palermo sono stati dei turisti del nord, insomma, sono stati infetti. Ecco, invece l'ultima cosa, Federico, è la questione dell'ironia, che c'è molto su WhatsApp, anche a me sono arrivate tantissime battute, scenette, video. Io non ci trovo nulla di male, sorridere anche nei momenti di difficoltà, no? Concordo, e tra l'altro anche quello non è nient'altro che lo specchio di quello che faremo nella vita offline. Se ci vediamo in un contesto privato, dopo due bicchieri di vino, ci sono solide probabilità che potremmo fare quella battuta in più. Quella stessa battuta fatta in pubblico sarebbe inopportuna, perché potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno, ed è il motivo per cui su WhatsApp girano quei vocali, quelle GIF, quei video, quei contenuti un pochino più ironici, con cui le persone, immagino, stanno in qualche modo provando a esorcizzare la situazione. Ma il ruolo dell'umorismo è proprio quello, esorcizzare un po' le paure della vita. Infatti è bello per questo. Facciamo ovviamente il complottone, o meno la domanda che sottende un complottone buttato lì: perché sui social non c'è traccia di persone contagiate che twittano o postano qualcosa anche in anonimo? Ecco, intanto è l'anonimo, cioè uno non è che se è lì con i social col nome e il cognome è contento di dire sono col coronavirus, perché poi la gente reagisce male e ti considera un appestato, cosa sbagliata. Però ci sono, Federico? In realtà ci sono casi, pochi, però ci sono, di persone che con nome e cognome hanno raccontato la loro esperienza e ti dicono: guarda, sono stato male, sono stato letteralmente 7 giorni a casa, e dopodiché, in realtà, siccome non corrispondo a una di quelle fasce anagrafiche a rischio, di fatto sono guarito e adesso sto bene. Però attenzione, come avete detto voi, come non è una cosa della quale mediamente adesso ci si può vantare, o è una storia positiva da raccontare che tutti applaudono, anzi vieni tacciato come l'untore, come delle camere di Boccaccio. Ecco, sì, c'è molta più attenzione a raccontare questo tipo di storie. Anche se sei guarito non lo vuoi rendere noto. Ma no, esatto, questa 47enne intervistata oggi sul Corriere a Voe Euganeo, che è guarita, dice letteralmente: sono guarita, non mi è successo niente. Non dice il nome e il cognome, dice: mi guardano tutti come se gli sputassi nel caffè da infetta. E purtroppo l'ignoranza è il virus peggiore, dai, diciamolo. L'ignoranza è un po' la paura, ecco. Sì, ma anche un po' l'ignoranza, perché se alzi peraltro è guarita, cioè che deve fare. Comunque, l'ignoranza ad esempio è quella di acquistare le mascherine protettive pensare che esse difendono dal mondo esterno, quando in realtà servono alle persone che sono già malate a non contagiare. Federico, benvenuto, ieri l'ho detto, io l'ho detto varie volte, sono stato massacrato, dico questa cosa, giuro, non dico la farmacia, perché sennò ieri entro in farmacia per prendere dei farmaci e intercetto il farmacista che a bassa voce, perché tutti entravano mascherina, il farmacista a bassa voce dice: che due coglioni ste mascherine, poi se servissero a qualcosa a questi, prego signora, mascherina, prego, filtro, il filtro dura 8 ore, sono 17 euro, insomma fa il suo lavoro, giustamente, va bene. L'avevo letto sul tuo Twitter, grazie. Sì, ecco, ringrazio Federico Sbandi, grazie Federico, fondatore di Digital Combat Academy, guarda che è arrivata. Però bisogna anche dire, scusa, che persone in giro con la mascherina se ne vedono alla fine pochi. Guarda che è arrivata appunto su WhatsApp una di quelle ironie. Ultima ora, Toninelli sul coronavirus. Cerchiamo di essere positivi. Vabbè, dai, sono ironie sull'ex ministro Toninelli in questo caso. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, chiedi per favore al tuo ospite quanti sono quelli che invece di virus hanno cercato virus. Scritto così proprio, virus. Tocca a noi? No, vai. Ma è mai possibile che cerchiamo l'igiene solo durante il contagio? La pulizia dovrebbe essere all'ordine del giorno, mattina, pomeriggio, sera. È una cosa vergognosa. Non esageriamo. Il problema è trovare i prodotti che servono per fare la mucchina in casa. Va bene. C'è chi ci troppa chiede, igiene non fa neanche bene. Se ti fai 10 docce al giorno, diceva mia madre, poi ti cadono i capelli. A me sono caduti anche con uno. Sì, ma non si riferiva. Sei sicuro che si riferiva alle docce? Se ti fai 10 docce al giorno, ti cadono i capelli. No, è un po' come la storia della vista. Ho capito. Senti un po', allora, no, ci chiedono ma vale l'aceto balsamico, ragazzi, ma io non so neanche se vale l'aceto normale. Questa storia dell'aceto, l'aceto balsamico. Vediamo se qualcuno, qualche medico all'ascolto ci può dire se questa teoria. Ho capito, ma tanto ci sarà un medico che dirà una cosa e un altro medico che dirà che è il contrario. Però sicuramente l'aceto di vino bianco serve a togliere il calcare. Quindi se avete delle incrostazioni nello stomaco, bevete tanto aceto che vi fa bene. Allora, il coronavirus ha fatto conoscere Codogno a tutto il mondo. Fino a ieri Codogno era una cittadina semi sconosciuta. Io la conoscevo perché tanti anni fa, lì in una discoteca di Codogno, il Metropolis, avevo fatto ben due spettacoli. Ma per il resto Codogno era sconosciuta ai più. E invece adesso è diventata il centro del focolaio principale del coronavirus. Ma la cosa che più di ogni altra mi stupisce è che quasi tutti i positivi del virus in altre zone d'Italia lo sono perché sono passati da Codogno. Trovi un positivo in Puglia, è passato da Codogno. Trovi un altro positivo in Trentino, è stato a Codogno. Ne trovi un altro a Tenerife, anche lui ha avuto un passaggio a Codogno. E allora la domanda è: perché anch'io recentemente non sono andato a Codogno? Cosa c'è di così interessante a Codogno per fare in modo che tutti prima o poi abbiano voglia di passarci? Quindi l'ombelico del mondo non è New York, Tokyo, Parigi, Milano. Il vero centro del mondo è Codogno, perché scopriamo che tutti sono recentemente passati di lì, da Codogno, ma non ce ne eravamo accorti, avevamo sbagliato tutto. Io giuro che appena questa storia del virus finirà voglio fare una gita a Codogno, anzi la prossima estate voglio andare in vacanza a Codogno, perché poi vedendo i servizi dei vari TG scopro che a Codogno ci saranno anche ristoranti con molti coperti, parchi giochi, pub. Codogno è un posto da visitare. E quando la storia del virus finirà, io sono sicuro che Codogno avrà grandi e positive ricadute dal punto di vista turistico. Perciò, amici di Codogno, non disperate, perché quello che vi è tolto ora vi verrà restituito poi con gli interessi, quando tutto tornerà come prima. Prima, quando ci lamentavamo, ma avevamo tutto e non ce ne rendevamo conto, potevamo tranquillamente andare allo stadio alitando in faccia al vicino la nostra gioia per un gol, potevamo stare all'happy hour prendendo gli stuzzichini con le mani, non preoccupandoci che qualche mano altrui fosse infetta, potevamo stringere le mani, dare pacche sulle spalle, i nostri figli potevano andare a scuola e all'asilo senza essere costretti a inventarsi giochi da fare a casa con la poco convinta partecipazione dei genitori. Potevamo provarci con donne o uomini conosciuti in qualche pub senza preoccuparci della provenienza, potevamo stare stretti in metropolitana continuando placidi a guardare i nostri telefoni, e oggi quelle cose ci mancano terribilmente. Quella che fino a ieri ci sembrava una gabbia dalla quale era impossibile evadere, oggi ci sembra la libertà. Il che ci fa riflettere proprio sul concetto di libertà. Libertà allora non è mai quella che abbiamo nel momento in cui ne parliamo, ma è sempre quella che c'era prima. Libertà e partecipazione, diceva Gaber. No, oggi scopriamo che libertà è andare a lavorare oppure passare ore e ore in attesa mentre i nostri figli giocavano a pallone nei freddi campi invernali. Tutte cose pesantissime che ora scambiamo per libertà. Che era prima non era libertà, era una grande rottura. E allora forse scopriamo con amarezza che la libertà non esiste mai nel momento in cui ne parliamo, esiste solo nei nostri ricordi o nelle nostre speranze. Per me allora libertà sarà, quando tutto sarà finito, fare una maxi vacanza a Codogno, in quella mite e sfortunata terra del Basso Lodigiano, ora sfortunata. Terra dalla quale ora non si può evadere, ma che in futuro ricorderemo come terra di libertà. Libertà dal lavoro e dagli obblighi della vita quotidiana, che torneranno quando tutto sarà finito. È proprio vero, quindi, la libertà non esiste. Guarda che bella foto che un ascoltatore ci manda da Monte Catini Terme. Ha intercettato una signora che vorrei tu descrivessi che cos'ha sul volto. Sai quelle maschere tipo è una specie di maschera a gas? No, sono quelle francesi nuove che servono ai bambini per andare sott'acqua con il tubolare. Sì, con le quali puoi respirare sott'acqua rimanendo sempre con, appunto, con la testa sotto, col boccaglio che va sopra la fronte. Sono le maschere da sub, nuova versione per i bambini. E vai in giro con questa maschera. Servono anche per nuotare. C'è chi nuota in piscina con quelle. Esatto, ragazzi. Cioè, però giustamente dice un'ascoltatrice molto arrabbiata, ha detto: ma non vi rendete conto che forse queste mascherine servono a dare sicurezza psicologica per chi ha paura? Guardate, io, siccome sono le mascherine, devono essere utilizzate da chi è infetto, io adesso quando vedo uno con la mascherina mi allontano per paura, dico: oddio, è malato. Oh mamma mia, questa è la mascherina, allora è malato. Beh, onestamente mi allontano, lui o lei mi vedrà allontanarmi, lei si allontanerà, ma sono io che scappo da lui o da lei. Beh, non visto lei il video che scappa di da Fontana, me. Del governatore, sì, esatto, detto Fontana, che mette la mascherina, sì, perché eventualmente è negativo, ma ha detto: se ipoteticamente fossi positivo, evito casomai di infettare gli altri. Ma se è negativo? Allora, sì, dice, l'ha fatto il tampone, è negativo o positivo? No? Ma lui teme nei prossimi giorni magari di poter diventare positivo. Ma se è negativo, l'ha fatto adesso il tampone? Sì, tra l'altro l'ha messa male la mascherina. Vabbè, l'aveva su un orecchio sì, e invece l'elastico dall'altra parte. Sì, era inquietante Fontana visto così. Peraltro le mascherine durano, credo, 12 ore. Mi ha fatto paura Fontana visto così. Sembrava un serial killer, mi sono spaventato. No, perché Fontana con la mascherina sembra un serial killer, figlio di Hannibal. No. Giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Hai ragione Manera. Adesso potresti dire al tuo amico della Vagone International Tour che si può andare anche a Codogno oltre che nell'altra meta. La Fusconi in Svizzera? Ma siete impazziti, è l'unica che alza l'asticella di questo programma. Fusconi torna per favore, Fusconi. No, ragazzi, dai, iniziamo la seconda ora di Uno e Suo 100.000. Tanto dov'è che devono andare gli ascoltatori? Credo che dopo arriverà il signore. Oggi ce l'abbiamo, signore della Vagone Tour International. No, ma tu non senti che almeno in tutto questo, Leonardo, c'è un'aria più friccicorina, frizzante, di libertà, oserei dire di libertà. Per oggi, domani abbiamo mandato Elisabetta Fusconi nella sua amata Svizzera. È andata a controllare se anche là c'è. Sì. Cosa c'è? No, cos'è? Perché c'è? Ma no, cucù. No. Senti com'è più serena e tranquilla. No. Buongiorno Alino, buongiorno Leo. No. Ti sentiamo molto più allegra rispetto al solito. Come mai? Ma sì, sono qua, ho addosso una vestaglia di flanella. No, mi stavo chiedendo, ma devo parlarvi con una sorta di tono da inviata in Svizzera o quello da fancazzista, va bene? Ma dove sei? In Appenzello, in Canton Uri, in Canton Giura? Dove? Dai, sì. Sono in una ridente Lugano che ho davanti ai miei occhi. È ancora un po' sonnecchiante, direi. Una Lugano che si è svegliata con la notizia di un secondo caso di coronavirus, peraltro in quel di Ginevra. È una Lugano che ha deciso di tenere alta la testa, di lavorare anche oggi, di tenere le banche aperte, di dare l'abbrivio a una giornata di finanza come le altre. Le banche. Guarda subito la Svizzera, parla di banche e di finanza. Banche, subito sì. In una prima frase ha messo banche e finanza. Ma tu sei andato finanza, a depositare banche. Del denaro che hai portato illegalmente dall'Italia? Ma beccato e quei lingottini d'oro alla frontiera? Ieri allora la frontiera di Brogeda è andata tutto liscio, era deserta. Per forza, mi hai fatto intervistare il finanziere che ha scritto il libro apposta per farti riconoscere alla frontiera dicendo: sono io quella che ti è passato col libro una settimana fa. Avanti Fusconi, prego, passi pure coi lingottoni, passi. Comunque le notizie qua sono due. Una, appunto, che alla frontiera è tutto tranquillo. Quanti temono che la Svizzera chiudesse i passaggi? No, state sereni, si può fare avanti e indietro comodamente. Si può andare in Svizzera. La seconda è che è evidente che vi manco. Se mi state a rompere le scatole anche in vacanza, evidentemente ammettetelo platealmente che vi manco. È stato organizzato un colpo di stato, credo, dalla redazione di Uno Nessuno 100.000, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti. Ah, devo sottolineare che Miriam Lucchetti nella pausa pubblicitaria del giornale radio è scesa e si è fatta controllare la febbre. Cioè, quando siamo la fila non c'era più. Sì, sì, sì, però siamo, posso dare una notizia, a 38,3, credo. No, no, no, no, è tutto a posto. Ecco, vabbè, ditemelo che così magari resto da queste parti. Sì, state onesti. Vabbè, va bene. Ti ringraziamo. Non possiamo dire vai a lavorare a questo punto, ma vai, vai, non lo so. Oggi, guarda, ho una prospettiva ben peggiore perché ho di fronte a me una giornata di compiti da far fare alle mie figlie, quindi preferirei tutta la vita essere lì a castigarmi. Noi invece no, pensa un po', noi invece siamo contenti così, siamo contenti così. Ti lasciamo in Svizzera, alla amata Svizzera, va bene, ciao, ciao, bye. Buona giornata a tutti, ciao. E va bene, va bene. Niente, qua ormai siamo circondati, altro che dal coronavirus, Leonardo. Da cosa? Questa cosa qui, vedi, non ti puoi girare, anche se la mandi via, ormai la radio ti compare. Vabbè, abbiamo fatto un collegamento internazionale. Sì, sì, bello. Ah, attenzione, vedi, oggi avevamo Maurizio Milani, il grande Maurizio Milani da Codogno. Vedo, almeno dalla schermata, che ci chiama Antonio da Castiglione d'Adda, giusto? Buongiorno, quindi nella Buongiorno. Zona rossa, siamo nella zona rossa. Mi sente bene? Sì, benissimo, Antonio. Allora, prima cosa, buona giornata a tutti. Bene. Volevo spiegare un attimino un po' qua come vengono viste le cose da una persona che vive proprio nella zona rossa. Certo. A differenza di alcune interviste che ho sentito per TV che sembrerebbero persone in vacanza, qua c'è un bel disagio. Eh beh, certo che c'è un disagio. Per esempio, fare la spesa, si riesce a fare la spesa? Com'è l'approvvigionamento da quella parte? Mi dicono che negli ultimi giorni, ieri soprattutto, i supermercati cominciano a normalizzarsi e quindi si può fare la spesa. Però noi a Castiglione d'Adda, per esempio, un supermercato non esiste. E quindi, paese di 4.600 abitanti, ci sono tutti i negozietti e basta. Ecco, i negozietti come sono? Aperti, chiusi, hanno merce? Le dico la verità, noi avevamo una scorta abbastanza in casa, per cui non siamo ancora usciti a fare la spesa. Cioè, lei da quant'è che non esce di casa, per capire? Da venerdì. Accidenti. Guardate, beh, che no, anche adesso, no, ho capito, ma anche sulla 5 giorni li puoi sì, avere però senza fare la spesa. No, ma 5 giorni in casa, mi può spiegare, adesso io non lo so com'è il nucleo familiare suo, anche dal punto di vista psicologico, come io mi sento intrappolato dopo un po'. Ha ragione, è così come mi sento anch'io intrappolato. Ma lei però esce ogni tanto, cioè esce a fare due passi. Perché ho l'orticello, mi dedico un po' all'orto. Beh, è chiuso nella mia proprietà, un piccolo orticello, però quello mi svaga un pochino. Sì, beh, certo. Ma lei conosce invece qualcuno positivo, giusto o qualcuno ammalato proprio? Insomma, Ma è qua che volevo parlarvi. La sensazione attuale è quella che le comunicazioni sempre state carenti, cioè non abbiamo mai saputo ufficialmente le persone positive o negative. E beh, ma questo si fa per una tutela anche della privacy, cioè, ma in questo caso la privacy, mi scusi signor Milan, deve essere superata, perché qua è una questione di sicurezza. Però lei può immaginare, cioè io il nome e cognome per esempio del cosiddetto paziente 1, i giornalisti lo sanno tutti, lo sappiamo anche noi nella redazione, sappiamo come si chiama lui, chi è di cognome, ma capisce che è dovere proprio di non dire, cioè cosa si scatenerebbe? Tanto che differenza fa se lei sa il nome e cognome? Ma siccome la comunità è abbastanza piccola, se io so che una persona è contagiata, cerco di stare un pochino più indietro rispetto a uno che è sano. Però in teoria le autorità sanitarie si prendono cura di questo tipo, cioè loro lo isolano. Sì, deve rimanere in casa, gli avrà detto di restare in casa. Guardi, le dico una cosa, un mio conoscente, se funziona è bene, stato ricoverato con più di una febbre alta. Siccome all'ospedale non sanno cosa fare, e non so se gli hanno fatto tampone o no, l'ha mandato a casa di notte alle 4 di mattina e raccomandando di stare in isolamento a casa sua. Questo non sa. Ecco, ha fatto il tampone, però non gli ha dato il risultato. Sì. Anche gli ultimi tamponi che hanno fatto, i risultati non li danno, né positivi, né... prima speravo solo i negativi, perché ho detto, vabbè, uno non ha il risultato negativo, quindi dice, vabbè, starò bene, sì. Però è sbagliato anche quello, perché uno se sta bene dovrebbero essere, diciamo, avvisati che tutto va bene. Ma quello che è più grave è che ultimamente uno positivo viene anche non viene avvisato. Non sa però se è non positivo sa. Perché se dice non che non sa. Viene avvisato, sì. Dice che non viene dato il risultato dei tamponi. Sì. Mi scusi, non ho capito. Non viene dato il risultato dei tamponi. Non viene il risultato dei tamponi. Probabilmente l'ultima decisione che è stata presa di fare, sì, vogliono fare i tamponi ora solo ai sintomatici, cioè quelli che hanno i sintomi, ecco. Non so, febbre, esatto. Comunque tosse. L'impressione è questa, che all'inizio, quando ci sono stati, diciamo, le prime avvisaglie dalla Cina ben chiare, avrebbero dovuto prendere queste persone qua, 4-5 mila, 10 mila che fossero, e dire fate tutto di isolamento. Sì. Che siano cinesi, che siano italiani che lavoravano là, chiaramente era un grosso disagio, una spesa. Ma adesso diventa una cosa enorme rispetto a quella spesa che poteva essere. No, va bene, ma questo è, come dire, è il discorso di quello che si poteva fare. Antonio, io aggiungo solo una cosa. Ma stiamo diventando lo zimbello d'Europa. Avrà notato infatti che nelle ultime 48 ore, secondo me, c'è stato, è come quando, faccio un esempio sul calcio, magari tutti lo capiscono, quando un arbitro dà un rigore i tempi pre-VAR, sbaglia e fa un errore clamoroso e tutti dicono guarda che hai fatto un errore clamoroso a favore di una squadra, poi magari nel secondo tempo cerca di compensare facendo un errore per l'altra squadra. Risultato, ha fatto due errori. Ecco, sono stati fatti due errori di comunicazione. Domenica il Premier Conte è apparso, e ieri sentivo Barisoni, ha contato 16 volte sugli schermi di tutte le TV nazionali dalla sede della Protezione Civile vestito col maglioncino, come a dire sta succedendo qualcosa di grave. E la gente si è impaurita. Fontana ha paragonato Milano a Wuhan e la gente è stata letteralmente presa da nevrosi. Adesso ci stanno dicendo riapriamo tutto, dai per favore, è un raffreddorino, l'OMS dice abbiamo esagerato, i tamponi ma no, ne dobbiamo fare meno, cioè un impazzimento da una parte e dall'altra. Beh, così abbiamo una vita un po' più movimentata. Però guardi, sapere almeno le persone che sono positive, che circolano tra di noi, lei dice sì, guardi, la quarantena è una cosa essenziale, Antonio, lei la privacy, dice oggi rinvito a leggere la guarita a Voe Uganeo, che è sotto anonimato, non dice nome e cognome, perché diceva già quando ero positiva mi guardavano come se avessi sputato il virus nel caffè a tutta la cittadinanza. A me la se cosa... dice adesso il nome e cognome la gente la evita ancora. Però anche a me se la cosa che risulta veramente strana è quello che ci diceva questo ascoltatore, che quelli che hanno fatto il tampone non sanno, non conoscono loro stessi i risultati. Perché ci vuole del tempo effettivamente, però effettivamente questa è una cosa, se vivi soprattutto nella zona rossa devi essere pronto e veloce a dirglielo. Questo sì. Allora ci chiedono su Twitter, vabbè dopo il traffico dai, dopo il traffico, no, ci chiedono su Twitter, per favore ridate il nome di quel libro che hai citato tu con le lunghe frasi altisonanti ma che in realtà non vogliono dire nulla. Autore cercasi, e l'autore è Gustavo Palazzo. Sugarco editore. Sugarco. Io lo chiamo Sugarco. Sugarco, sono internazionale. Vabbè, Gustavo Palazzo, come il palazzo. Come l'attaccante del Bologna. Palazzo, quello è Palazzo. Sì, vabbè. Senti un po', ma ti ricordi il numero verde? Perché anche oggi chiudiamo alle 10:45. Ma quello nessuno lo può ricordare. Nicoletta Carbone con gli infettivologi. Ci risponderà. Comincia con 335, poi in mezzo c'è un 100. No, subito 335, 100, e poi non me lo ricordo più. Traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora c'è Emilio da Bergamo. Eccoci, Emilio. Buongiorno. Buongiorno. Intanto faccio i miei saluti a Leonardo Manera, che conobbi in un ascensore di un ospedale della provincia di Brescia. Bene, una bella occasione. Stupendo, in un ascensore di un ospedale. Ma dove? La poliambulanza di Brescia, dove eravamo? Ospedale di Gavardo. Ah, Gavardo, ero andato al pronto soccorso, ricordo, sì, per una vescica. Lui il pronto soccorso le ha fatte di tutta Italia, praticamente. Sì, avevo una bella vescica dolorosa sul piede, sono andato al pronto soccorso, il classico comportamento che non si dovrebbe avere. Sì, proprio, sono qui per una vescica, codice sotto bianco, grazie. No, questa conoscenza risale a quasi un anno fa, quindi non era sicuramente paziente a rischio. Vabbè, Emilio, che ci dice? Allora, io sono per andare un po' controcorrente. Sì. Come dicevo in redazione, ci sono tutti questi specialisti mega esperti, virologi, eccetera, che ci stanno raccontando che le mascherine le deve portare solo comunque chi è infetto. Io ho lavorato per tantissimi anni, sono un informatore scientifico, per tantissimi anni in un'azienda che produce vaccini. Qualche cosino ho imparato su virus, batteri e quant'altro. Io potrei benissimo essere un paziente asintomatico, quindi infetto ma asintomatico, quindi la mascherina la devo portare anche io. Quindi ho le cose, no, e qui non è la questione di creare panico, ma se... voglio fare le cose seriamente, non devono dire che le mascherine sono inutili. Le mascherine sono utilissime. Ho capito, è evidente ma che non si trovano, è evidente che non capisce, si trovano. Capisce Emilio, io l'ascolto, però se tutti i medici virologi dicono le mascherine, a parte per i medici, a parte per i malati, certamente lei dice io non posso sapere se sono infetto. Allora parte... dovremmo metterle tutti esatto, allora dovremmo metterle, perché potenzialmente tutti potremmo essere asintomatici anche. Se loro dicono non serve perché prende dalle mucose degli occhi che non sono protette dalle mascherine, poi le usano tutti male perché dopo 10 ore le prende dalle mani, le prende. Se tutti i medici mi dicono che non servono, io l'ascolto, ma perché non dovrei credere ai medici? Le chiedo come questo. Lo spiega che ci sono tanti infetti tra infermieri e medici? Ma certo, ma che non servono, no, Emilio, però scusi, hanno detto non servono a parte per i medici e gli infermieri, l'ospedale sanitario che è a contatto. Di cui non sono forniti tutti. Dici, mascherine certo, di cui non sono forniti ma, tutti di quelli però del personale non sanitario. Hanno detto che non serve in quel caso, hanno detto che serve solo negli ospedali ai medici. Serve a chi è malato per non infettare gli altri, ma non, ecco, non servono in metropolitana. Ecco, non so allora, come, ma se lo dicono così, io perché come mi devo. E come non servono in metropolitana? Vabbè, allora... Perché gliel'ha detto il medico? Beh, sì, se no, se me lo dicono, circola liberamente nell'aria. E l'aria non ha confini. Quindi anche le chiusure delle frontiere che paventano, eccetera, sono delle stupidaggini perché. Sì. Il virus non ha confini. Io Emilio, l'aria però non ha confini. Se lei mi dice lei ci crede se glielo dicono 50 infettivologi? Beh, scusi, le rispondo sì, se me lo dicono 50, siccome io non me ne intendo, ma 50 infettivologi sì, tendo a credere alla scienza e a 50 infettivologi. Però aspetti un attimo, lei dice che il virus circola, sì, lei dice che circola liberamente nell'aria, circola dentro le persone, nell'aria dopo circola, poco, ovvio, dopo sì, poco muore nell'aria, altrimenti vuol dire che anche camminando per strada. Il coronavirus mica tanto poco, mica tanto poco. Comunque, detto questo, secondo me la precauzione in più non è mai da sottovalutare. Vabbè, non è questione di però il panico c'è, perché se uno poi vede le immagini tutti con le mascherine, eccetera, sì, certo, la precauzione in più. Allora veramente tappiamoci in casa e non usciamo più, siamo sicurissimi. Se uno è negativo, se sta in casa è sicurissimo e si fa mandare il cibo con il secchio dal secondo piano, è sicurissimo di non prenderlo. Sai cos'è? Secondo me è sempre una questione di costi e benefici anche qui. Cioè, se io sono una persona di media buona salute, magari vado in giro per strada senza mascherina. Se magari sono un anziano che ha problemi, eccetera, ho qualche precauzione in più, però dovrei mettere anche gli occhiali per proteggere gli occhi e così via. Comunque, io voglio salutare l'avvocato. Grazie Emilio, voglio salutare l'avvocato Maurizio Bianconi. Avvocato, buongiorno. Eccoci. Ciao, buongiorno. anche al tuo amico. Che stupendo, è Leonardo. Sì. Allora, io qua davanti un libro, devo fare una confessione, Maurizio. Mi è arrivato due giorni fa e non l'ho ancora letto. Tu non l'ho ancora letto. È andato a recuperarlo sotto una pila di libri che aveva messo da parte. Questo è il solito Leonardo Manera. Si intitola Un graffio al peggio. C'è anche il simbolo del bel graffio. È bella questa cosa, perché Bianconi è così, è uno urticante, come io l'ho sempre definito, una vipera, una serpe del Parlamento. Una lingua biforcuta, ti chiamavo così. Una lingua biforcuta. Parli di politica, europeismo, sovranismo, ne parleremo. Prima lo leggo, ne parleremo. Poi... È la prossima volta, quando mi chiami. Sai, sì, tanto ogni tanto ti chiamo, tu lo sai. Sì, ma sì. È vero che sono arrivati i milanesi? Non sono apparsi gli striscioni milanesi tutti appesi? No. A Forte dei Marmi. I milanesi sono praticamente compatrioti a Forte dei Marmi. E sono arrivati lì in massa? Sono arrivati lì? Sì, sono arrivati abbastanza. E hanno aperto le case sia a Forte dei Marmi, ma in tutta la costa fino all'Elba. E come sono stati accolti? Hanno preso finalmente un pezzo di libertà che si meritano. Benvenuto la follia di questi imbecilli che hanno chiuso ogni cosa e hanno messo paura alla gente, così quegli imbecilli di quel prete, ma questa fine a quella radio. Ma che prete Fanzaga, ce l'hai con lui? Non lo so come si chiama, l'ho sentito per combinazione, quello è un demente vero. No, fermati, guarda che si arrabbiano poi, se vuoi te lo facciamo sentire. Perché noi non abbiamo diritto ad arrabbiarsi. Che in Italia c'è un idiota che dice queste cose. Ha ragione Bianconi. Guarda. Che l'olocausto non c'è stato, lo mettono in galera e fanno bene. Pensa e che tutte le casse da lì vengono fatte. Pensa che è dovuto intervenire il cardinal Scola. Con un'intervista in un'intera pagina di Repubblica, dire attenzione, non è un castigo di Dio. Te lo faccio sentire, guarda, il direttore di Radio Maria. Ma invece di pigliare a calci le sedere questo imbecille che dice queste cose, e quella radio che si chiama Radio Maria, mi pare, che le fa dire, invece di fare una paginata di Repubblica, lo potrebbero buttare fuori e chiudere la radio. Sarebbe molto più semplice. Sentilo qua, è Satana! Satana! Con una mano ti danno il labbrone e con quell'altra ti danno la carezza. Ragazzi, ma la Chiesa ancora fa gli esorcismi, ma siamo nel 700 dopo Cristo, quindi non nel 2020. C'è chi ci crede, Maurizio. Don Livio. Chi ci crede, senti. Ma scusa, perché chi ci crede deve, come posso dire, divulgare notizie false atte a turbare l'ordine pubblico? Tu lo arresteresti? Ma c'è un reato. Io che conosci il codice, subito. Attenzione, il codice penale. È procurato allarme. Che tipo? Quello che ho detto io l'hai detto te, è uguale. Procurato allarme. Che articolo è? Te lo ricordi a memoria? No, figurati. Quindi turbamento dell'ordine pubblico. Senti, padre Livio Fanzaga, sentilo qua. E quindi è un ammonimento del cielo. Attraverso questa pandemia la Madonna ci dà un messaggio chiarissimo, e forse il fatto che si chiami corona, perché ha la forma di corona questo virus, questa non è male, un messaggio che la Madonna ci dice, la pregate, corona della Madonna, prega. Sembra di essere tornati nel 1200. Sono i stessi paurosi di questo paese, la web ti è preti in dei preti imbecilli, io non so dove sarai. Ecco, ce l'ha con i preti, vedi, il graffio oggi di Bianconi. Poi il problema è che Radio Maria, per lo più chi l'ascolta, anche tanti anziani che magari sono chiusi in casa, escono poco, si terrorizzano ancora di più. Vabbè, è stupenda questa cosa. Vabbè, Maurizio, la prossima volta parliamo del libro, te lo prometto. Intanto, ma senti, io invece ho detto questa cosa, oggi su Twitter ho scritto pensiero malvagio e un po' me ne vergogno anche. Ma se tutta questa cacciara fosse stata anche imbastita, un po' esagerata, perché c'era una crisi di governo alle porte, intanto parliamo d'altro? No, sarebbe già una scelta politica. Questi non sono in grado di fare una scelta politica. Quindi dice... Hanno trovato il sistema di essere protagonisti, di sgrillettare da una trasmissione a quell'altra, per farsi vedere che erano bravi, che avevano preso tutte le misure del mondo, che come loro non c'era nessuno... E hanno fatto come quello che ha sputato quell'aria, ha messo sulla testa e ci ha ritrovato il punto. si è ritrovato, insomma, sì, infatti gli torcerà conto, secondo me, politicamente, quando finirà tutto questo. Va bene, intanto c'è chi specula, c'è chi guadagna. Oggi sotto nella hall di Radio 24 ho trovato un nuovo volantino dell'Elisir del dottor Meazza. Ah, così ecco. Recitava: soffri di stipsi? Ti cigola la porta di casa? Trovi poco simpatico il tuo vicino? Fai rumore masticando? Hai le ossa fragili? Soffri di osteoporosi? Problemi di acne giovanile? Ci sono spifferi in casa tua? Allora prova l'Elisir del dottor Meazza, l'Elisir che risolve tutti i problemi della tua vita a soli 19,90 euro. Elisir dottor Meazza, il benessere a portata di portafogli. Io ho degli spifferi, per esempio. Quindi... devi bere un buon sorso di Elisir dottor Meazza. Ma cosa c'entrano gli spifferi? Risolve tutto. Perché finiscono gli spifferi? Non lo so, però risolve. Vorrei capire il principio attivo di questi spifferi che scompaiono. Ma non lo so, vabbè. Nel ringraziare Maurizio Bianconi, che roba strana, perché gli l'acne avrei tutto, capito. Tutto, risolve spiffer. Tutto. Secondo qui Mauro Meazza, il suo Elisir è la panacea di tutti i mali. Ma porca miseria. Va bene, allora andiamo a sentire la borsa. Guardate che anche oggi chiudiamo alle 10.45, perché se poi voi nel frattempo mandate sms, whatsapp, vocali, per fare domande al seguente numero 335 100 6297, vedi, mi è sibilata anche la ripetilo tu Leonardo, tu ce l'hai davanti, non io spiare. Non ho davanti nulla. 335 100 6297. Beh, facile. Mandate domande, sms, whatsapp e Nicoletta Garbone alle 10.45 risponde sul coronavirus. A quel numero potete anche prenotare l'Elisir del dottor Meazza. No, sì, potete. Sì, mandate un whatsapp al 335 100 6297 per chiedere l'Elisir del dottor Meazza. Se chiedete l'Elisir del dottor Meazza, i primi 100, d'accordo! No, scusate, la borsa... Uno, nessuno, 100 Milan. Danza della pioggia e corona della Madonna sul virus. Mamma mia, siamo proprio messi male. Aiuto. È Satana. Non capisco questo messaggio. Leonardo Manera è un mito, peccato che sia friulano, firmato un triestino. Non è né friulano né giuliano come triestino, ma è di Salò, l'abbiamo detto. Salò che è in provincia di Brescia. Perché pensano che tu sia friulano? Forse mi hai messo in giro. Da Trieste, quindi dalla Venezia Giulia, ecco. Perché sai che se dici il Friuli in Venezia Giulia si arrabbiano tantissimo. So bene, sì. Proprio, mi sfida Lucchetti, mi ha fatto il segno proprio, ti tagliano la gola. Ah, se dici andiamo in Friuli, oh, diciamo il Friuli Venezia Giulia, giustamente. Insomma. Mi ha contattato Gianluca Schmidt, che conosci anche tu. Sì, grande, dell'Udinese Calcio. Sì, che adesso però lavora anche per il Pordenone Calcio. Ah, e quindi ecco. Forse andrò a fare una cosa per il Pordenone Calcio. Pordenone che è in Serie B, giusto? Beh, informati prima. Gioca. Informati, sfida Lucchetti, ne sono quasi certo. O è in B o è in Lega Pro? No, secondo me è in Lega secondo Pro. Secondo me è in Serie B. È in Lega Pro? No, secondo me è in Serie Prova B. Prova a verificare. Ma secondo me è in Serie B. Chi l'ha detto comunque che non bisogna viaggiare? Eccolo qua, zio Francesco Vagone, del Vagone Tour International, è venuto a trovarci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Viaggiamo anche se c'è coronavirus, viaggiare da allegria. Allora, Vagone Tour International, l'agenzia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Per esempio, tra le bellezze del Kenya, per un safari avventuroso, wow, direi che il leone è sempre meglio guardarlo sui Deplian, è un personaggio aggressivo. Nei tempi del Bhutan, per trovare la felicità, prima bisogna trovare il Bhutan. Sono gli aerei. Grazie alle nostre agenzie viaggi Vagone Tour International potete visitare la graziosa località di Beronzi Superiore, sì. Un piccolo gioiello della penisola, ma ancora non invaso dal turismo di massa. Per la verità, la settimana scorsa a Beronzi è passata la nazionale di 3-7 col morto, ma sono ripartiti subito, tranne il morto che ha voluto rimanere. A Beronzi Superiore gusterete una vacanza vibrante come il trapano del dentista. Sì. E allora perché non cogliere questa opportunità? Vabbè. Partiamo subito dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori di Vagone Tour. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione potrà approfittare della promozione Io, tu e Beronzi. Io, tu e Beronzi, sì. Superiore. Io, te e Beronzi. Si tratta di una romantica sfida di coppia. Se lei riesce a resistere una giornata intera senza dire te lo avevo detto, subito un euro da spendere negli esercizi locali. E gli euro diventano due se lui non dice sei come mia madre. Ma ora è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi Superiore. La prima attrazione di Beronzi è Piero, l'uomo con la voce più alta del mondo. Ma che senso? Da giovane Piero guidava le manifestazioni senza megafono. Quando canta con gli alpini copre la musica delle fanfare. Quando ha chiesto a sua moglie di sposarlo hanno applaudito anche i parenti a Buenos Aires. Se Piero dice sottovoce al farmacista avrebbe qualcosa per la prostata, dal giorno dopo tutto il paese inizia a chiedergli come va l'infiammazione. Quando Piero va al ristorante con gli amici tutti si chiedono se c'è il Dolby Surround. Piero deve al suo comune 300.000 euro perché ogni volta che ride per strada salta una vetrina. Sì. Questa è la prima attrazione di Piero, Beronzi, l'uomo con la voce più alta del mondo. Ma a Beronzi Superiore attrazioni sono moltissime. Per esempio, l'uomo con i capelli più duri del marmo è un uomo che ogni giorno... È un uomo che ogni giorno si mette mezzo chilo di gel sui capelli, ma non li lava mai. Ma non li lava mai. Perciò nel corso di... gli sono di... più duro del marmo. E poi... E poi? La donna con l'ascella sempre pezzata è una donna che ama indossare maglie aderenti ma sempre in acrilico, perciò sempre l'ascella pezzata. E per finire il cane che pur di lasciare Beronzi cerca qualcuno che lo accompagni in autogrill. Le sorprese a Beronzi Superiore non finiscono mai, allora prenotate subito la vostra vacanza con Fagone Tour International. Va bene, va bene. Please visit Beronzi. Please visit Italy. Segnalo a Leonardo Manera che il Pordenone in Serie B, vabbè, insomma, è stato promosso allora. È sconfitta, sconfitta. Allora, perché se devo andare a fare una cosa per il Pordenone Calcio, mi devo informare. Segnalo anche Elisabetta Fusconi, che è in Svizzera, che è notizia di pochi istanti fa: è stata annullata la fiera degli orologi di Ginevra per la vicenda coronavirus. Forse era in Svizzera per quello, si sa. Allora, signori, noi siamo quasi in chiusura. Abbiamo spazio per un ascoltatore, magari, se c'è. No, non abbiamo spazio per un ascoltatore, ma abbiamo spazio per ricordare il numero di telefono. Ah, ricordalo a cui bene mandare... che l'hai sempre detto sbagliato. C'è qui Nicoletta che ti vede. Nicoletta Carbone. E non sa Nicoletta che tu l'hai sempre detto sbagliato il numero. No, no, no, io l'ho detto giusto. Per fare le domande, Nicoletta Carbone tra poco risponderà con degli esperti. 335 100 6297. E anche il numero, mandate WhatsApp, SMS, vocali con le vostre domande. E anche il numero, ricordiamo, per chiedere l'elisir del dottor Meazza. Sì. Se volete l'elisir del dottor Meazza scontato, 335 100 6297, scrivete vorrei l'elisir del dottor Meazza. Serve per tutto, per gli spifferi, per le cose. Perché ti metti la mucchina? Perché adesso si sta è già per parlare. Tre volte che hai messo la mucchina. Ma te l'ho detto. Io spero che ti costi un patrimonio questa mucchina. Prima di tutto io ce l'ho. Me la passi un attimo. Ce l'ho io. Grazie. E adesso si parla appunto di coronavirus, poi mi sono diventato dipendente dall'odore. Dall'odore. Sì, dall'odore. Mi sono assuefatto all'odore della mucchina. Sì. Infatti hai chiesto anche, chiedi alle tue donne 5 gocce di Chanel a mucchina. Insomma, questo è quello che chiede. Lasciamo la linea a Nicoletta Carbone, noi con la mucchina ci troviamo domani mattina. Nessuno, nessuno.